piccolo droide mi causerà un sacco di guai. Oh, è la sua specialità, signor. Volete accomodarvi, signori? L'era dei robot di Simone Spezia. Siete seduti sulla vostra auto, ma non state guidando voi, ci sta pensando un computer. È una macchina evoluta, ha imparato come le sue sorelle dopo milioni di chilometri percorsi come ci si comporta al volante. Sa affrontare bene le curve, accelera e decelera al momento giusto perché conosce se stessa e i suoi limiti meglio di quanto non sappiate fare voi, a meno che non siate un pilota professionista. Rallenta quando piove e la strada è scivolosa, ma rallenta quanto è giusto rallentare perché dei sensori sulle ruote indicano esattamente che tenuta, che grip hanno. A differenza vostra, non ha angoli ciechi negli specchietti perché le sue telecamere, i suoi occhi elettronici hanno una visione a 360 gradi e le sue enormi capacità di analisi sono potenziate dalla connessione in rete con migliaia di altre automobili in grado di coordinarsi tra loro. Insomma, sulla vostra macchina autonoma potete fare pieno affidamento, ma succede qualcosa. Non so se abbiate o abbiate avuto figli piccoli. Una delle cose più difficili da insegnare loro è reprimere l'istinto di inseguire un pallone quando questo rimbalzi via dal marciapiede e finisca in mezzo alla strada. È esattamente quello che succede. Un bambino in mezzo alla strada, un'automobile autonoma in arrivo a pochi metri. Se foste voi alla guida e con un minimo di riflessi pronti sapreste esattamente cosa fare. Piuttosto che investirlo sareste disposti a schiantarvi, magari sull'albero, sul lampione che c'è proprio là accanto, o magari a cader giù da un viadotto, ma alla guida non ci siete voi. Questa è l'era dei robot, una buona giornata da Simone Spezia. E una buona giornata anche dalla macchina che prima o poi ne prenderà il posto. Vi ricordo, come sempre, che per suggerire un nome da darmi, potete scrivere era dei robot @radio24.it. Oggi parliamo, non l'aveste capito, del perché bisognerebbe iniziare ad insegnare ai robot un po' di etica e a chi li programma ad inculcargliela. Gli appassionati di fantascienza, ma forse anche coloro che non lo sono, sanno chi è Isaac Asimov, uno degli scrittori più amati di questo genere, che fu anche autore di libri di divulgazione scientifica, un autore straordinario e straordinariamente prolifico, tra l'altro, il cui contributo alla robotica è esemplificato dalle famose tre leggi che dovrebbero regolare la convivenza dei robot con gli esseri umani. Volete ascoltare le tre leggi della robotica? Dicono sia una presentazione molto accattivante. Va bene, certo. Vuole farsi indietro, signore, per massimizzare la presentazione? Ah, sì. Va tutto bene. Prima legge della robotica: un robot non può recare danno a un essere umano, né può permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano riceva danno. Seconda legge: un robot deve obbedire agli ordini degli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla prima legge. Terza legge: un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con le prime due leggi. Andrew, non farlo mai più. Naturalmente, signore, è una dimostrazione una tantum. Brano tratto dall'uomo bicentenario. Probabilmente queste tre leggi della robotica non bastano più di fronte a quello che abbiamo di fronte, per quanto Asimov l'abbia esplorate nei suoi romanzi abbastanza profondamente. Wendell Wallach è uno studioso di etica, di tecnologia e un divulgatore che nel 2009 insieme a Colin Allen ha scritto un libro che si intitola Moral Machine: Teaching Robots Right from Wrong, ossia macchine morali, insegnare ai robot che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Un avvertimento: non lo troverete tradotto in Italia, ma uno dei tanti libri su questi temi che potrete reperire esclusivamente in inglese e più facilmente in forma di ebook, perché abbiamo bisogno di una moralità per le macchine. Sentiamo Wallach. Well, there are a number of answers to that question, but for us, the simple answer was that machines are developing more and more autonomy. Le macchine stanno sviluppando sempre maggiore autonomia. Questo significa che sono in grado di compiere sempre più azioni senza bisogno del controllo dell'uomo. Pertanto, quando i robot vengono a contatto con situazioni nuove, le persone che si sono occupate dello sviluppo di queste macchine non è detto che sappiano in anticipo in che modo queste si comporteranno, come valuteranno la situazione, quali decisioni prenderanno e a quali azioni daranno corso. In particolare, non si sa se queste azioni saranno allineate con i nostri valori, con ciò che ci sta più a cuore, in particolare quando il risultato di queste azioni potrebbe ferire o causare dei danni a delle persone, a degli animali o ad altri esseri viventi. Non gli attribuite dei sentimenti, però. Robby non è che una macchina, ma con una forza tremenda da sradicare questa casa dalle sue fondamenta. Se mal guidato, potrebbe essere uno strumento di morte. Mal guidato. Il tema è tutto qua. Chiediamo a Wallach di fornirci qualche esempio. Let's first take a simple one. If you have a robot who is taking care of the homebound and elderly, and the elderly person refuses to take the medicine the robot delivers to the individual. Consideriamo innanzitutto la situazione nella quale un robot si stia occupando di assistere un anziano e questa persona si rifiuti di assumere il medicinale che la macchina vuole somministrargli. Che cosa dovrebbe fare il robot? Questo potrebbe sembrare un dilemma di facile soluzione, ma in realtà non è così, perché da un lato si vorrebbe rispettare l'autonomia dell'individuo che viene aiutato dal robot, ma allo stesso tempo non si vorrebbe che l'assistito, non prendendo la medicina, facesse qualcosa che potrebbe nuocergli. Questo è un semplice esempio di un tipo di dilemma morale che un robot potrebbe incontrare. Recentemente ci sono state molte discussioni in merito a situazioni particolarmente delicate alle quali potrebbero andare incontro le auto senza guidatore. Immaginiamo che il veicolo sia nella situazione in cui, per evitare di investire dei bambini, debba sbandare con il rischio di precipitare da un ponte, mettendo il guidatore in pericolo di morte. Che cosa dovrebbe fare il pilota automatico? Queste sono solo alcune delle molte situazioni che richiedono una riflessione approfondita sulle implicazioni etiche e sulla progettazione dei sistemi che guidano l'agire dei robot. Ma questi sono solamente i primi problemi etici che i robot hanno dovuto affrontare e certamente ci sono ulteriori questioni che si pongono con i nuovi ambiti nei quali viene applicata la robotica. Se in alcuni casi risulta difficile anche ad un umano compiere una scelta in contesti dove vi sono implicazioni etiche, nei robot questa capacità di discernimento è ancora inferiore. Ad esempio, cosa dovrebbe fare un robot che rileva la presenza di un individuo con una pistola, ma non sa se ha intenzioni violente o meno? Come dovrebbe comportarsi in tale situazione? Come avete sentito, sono punti che in parte abbiamo sollevato nel corso delle nostre puntate, ad esempio quando abbiamo parlato dell'ipotesi di macchine autonome in guerra. Il tema che ci pone Wallach, così come quello che ci pongono altri studiosi di etica e di tecnologia, è piuttosto profondo. Perché? Perché riguarda il modo stesso nel quale noi compiamo certe azioni e il come addestrare le macchine a compierle nello stesso modo o, se il modo nel quale lo facciamo noi mediamente non va bene, a compiere queste azioni in modo diverso, in modo eticamente corretto, in maniera giusta. Vi porto un altro esempio. Sono in molti a considerare un'azione che ha un valore etico assumere alla guida un comportamento che privilegi il risparmio di carburante, di emissioni e di consumo degli pneumatici a svantaggio della velocità. Ma tra il ritenere corretto questo comportamento e metterlo in atto passa parecchio. In genere noi tendiamo a privilegiare un po' più di velocità rispetto a consumi che, insomma, per quanto ci riguarda e per la nostra percezione, insomma, non sono così drammaticamente più alti. Dunque, cosa dovremmo insegnare alle macchine, come spiegare a loro che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, insomma, che linea, che approccio dovremmo seguire? In my book that I co-authored with Colin Allen, Moral Machines Teaching Robots Right from Wrong, in many ways we talk about a lot of different ethical theories and a lot of different approaches on how you might. Alcuni di questi approcci li abbiamo definiti top down, perché l'implementazione di una teoria morale, di una regola d'oro, è ciò che determina l'azione della macchina in una determinata circostanza. In altre situazioni parliamo invece di learning robot, perché La macchina va incontro ad un processo di sviluppo. È qualcosa di simile a ciò che accade ad un bambino che con il tempo impara che cosa è appropriato fare o non fare in una certa circostanza, anche perché sa che se si comporta in modo sbagliato lui verrà punito. Entrambi gli approcci, sia il top-down sia quello basato sull'apprendimento, hanno vantaggi e svantaggi. Ma lo scopo che ci siamo dati è stato anche quello di ampliare la riflessione. Nel libro non c'è soltanto una dissertazione sul modo in cui si può insegnare ai robot a distinguere ciò che è giusto da ciò che non lo è, ma un'analisi ad ampio spettro su come funziona negli umani il meccanismo della decisione morale, a cosa diamo peso. In questo senso, il libro è diventato un contributo ad una riflessione complessiva sulle decisioni morali che vengono assunte dagli uomini. Il vantaggio di questo approccio è che focalizza l'attenzione su quegli aspetti che tendiamo a dare per assodati quando prendiamo una decisione. E mi riferisco alla consapevolezza, agli aspetti sociali, a come le emozioni giocano un ruolo positivo o negativo nel compiere una determinata scelta. Queste qualità secondarie, che vanno al di là della capacità di ragionare, diventano molto importanti nel compiere una decisione di carattere morale, e molti di questi aspetti, che vanno al di là della mera razionalità, risultano particolarmente difficili da implementare nelle macchine ad intelligenza artificiale, anche se ci sono degli studi che vanno in questa direzione. Come sentite, e come avete sentito, il problema è non solo abbastanza vicino da richiedere una soluzione, ma abbastanza lontano dall'essere risolto. Ancora una volta cerchiamo di semplificare con qualche esempio o con una schematizzazione che ci possa aiutare. Ipotizziamo due semplici livelli. Il primo è una macchina autonoma programmata per eseguire compiti estremamente semplici. Il secondo, una macchina dotata di vera e propria intelligenza artificiale, quindi di una qualche capacità di discernimento e anche di apprendimento, come abbiamo sentito. Partiamo dal primo, dalla macchina autonoma non dotata di intelligenza, ma che lavora sulla base di semplici istruzioni. E partiamo da un fatto di cronaca. Beh, allora penso che ci mancheranno i vecchi tempi. Quali vecchi tempi? Quando le persone le ammazzavano altre persone. Qualche settimana fa, sulle pagine dei giornali, vi sarà capitato di trovare la notizia di un robot killer. Una definizione, devo dire la verità, quanto mai impropria. Andiamo sui fatti. Siamo a Baunatal, 100 km a nord di Francoforte, una cittadina di 27.000 abitanti che sorge sulla riva di un fiume, quindi siamo in Germania. La sua caratteristica più nota è che è sostanzialmente cresciuta attorno alla seconda più grande fabbrica della Volkswagen in Germania, una fabbrica che impiega circa 13.000 persone, considerate appunto i cittadini di Baunatal sono 27.000. Ora, come abbiamo avuto modo di dire in altre puntate precedenti, il settore dell'automotive in genere è uno di quelli nei quali l'automazione è penetrata più profondamente. L'80% della produzione del settore automotive è effettuata da robot. Poi vi sarete abituati a vederli, ce l'avrete un po' anche nell'immaginario. Insomma, sono queste grandi braccia meccaniche che non sono cambiate molto, a dire la verità, negli ultimi anni. Certo, sono migliorate, sono diventate più efficienti, ma alla fine sempre quello sono delle macchine, delle braccia robotiche che ruotano. Il 29 giugno scorso, un lunedì, una squadra entra nell'area riservata ad un braccio meccanico che si occupa di prendere e assemblare pezzi di automobile. Lo scopo è il setup, ossia la messa a punto di questa stessa macchina, ma qualcosa non va. Il braccio prende letteralmente un operaio di 22 anni e lo scaraventa contro una parete di metallo. L'uomo, il ragazzo, morirà poco dopo in ospedale per le ferite riportate. Probabilmente c'è dietro un errore di programmazione, un errore di questa stessa squadra della quale questo ragazzo faceva parte, che probabilmente ha programmato male, ha sistemato male le cose, ma la sua famiglia avrebbe preferito che quella macchina sapesse distinguere un essere umano dalla parte di un'automobile. Con un robot così semplice, con un robot così semplice e che lavora in un ambiente così particolare, si possono adottare soluzioni evidentemente semplici. Magari dotarlo ai sensori, di rilevatori biometrici che comprendano la differenza tra un essere umano e un pezzo di un'automobile, oppure insegnargli a disattivarsi nel momento nel quale qualcuno entra nel suo raggio d'azione, un raggio d'azione delimitato da una sorta di gabbia per non rallentare la produzione. Esattamente in questa gabbia che è entrata questa squadra per provare a riparare il robot, è una gabbia che normalmente, alla quale normalmente è vietato l'ingresso agli esseri umani. Ma il punto è che robot anche così semplici stanno entrando ed entreranno sempre più rapidamente nelle nostre vite. In fondo la scelta se colpire o meno un essere umano è una scelta etica molto semplice da fare, ossia la risposta è non lo colpisco. Il robot, come ci insegna Asimov, non deve far male ad un essere umano, non deve permettere che per causa sua un uomo subisca danni. Ma se un uomo minaccia un altro uomo? L'era dei robot. Ma per quanto rivoluzionaria questa tecnologia possa essere, servirà sempre la presenza dell'uomo all'interno del teatro bellico. Nella prima parte della trasmissione abbiamo posto il problema. Bisogna far sì, bisogna pensare al fatto che le macchine imparino a distinguere, per così dire, il bene dal male. La risposta di massima è un sì. Il problema è capire come questo possa avvenire. Se un robot affronta una realtà semplice, si diceva poco fa, si pensi ad una fabbrica, può bastare un set di istruzioni molto precise. Se il robot affronta una realtà complessa come quella nella quale ci muoviamo tutti i giorni, il discorso cambia. Cambia perché noi stessi, come abbiamo raccontato nella prima parte della trasmissione, ci sono una serie di cose nelle quali compiamo delle scelte molto rapide, talvolta addirittura dettate semplicemente dall'istinto, e che sono delle scelte automaticamente etiche e che magari la macchina non è in grado di scegliere, non è in grado di capire bene. Torniamo da capo, ripartiamo da quello che intendiamo per robot: non solo un oggetto in grado di muoversi autonomamente, ma anche un computer. Abbiamo portato l'esempio del trading algoritmico, ma un altro buon esempio è l'algoritmo che guida le nostre ricerche su Google. Nello stesso momento nel quale effettuiamo una ricerca, per esempio una ricerca su un problema fisico che abbiamo, una ricerca di tipo medico, questo algoritmo compie sostanzialmente una scelta tra il bene e il male. È vero che ci consegna decine o centinaia di migliaia di documenti, quando non milioni, ma è vero che ben difficilmente andremo oltre la seconda o la terza pagina di ricerca, ossia ci consegnerà prima alcuni risultati rispetto ad altri. Non è detto che questi risultati siano più affidabili, magari sono solamente dei risultati sponsorizzati o dei risultati che hanno molti click o che hanno delle parole chiave particolari. La soluzione sembra poter risiedere in qualche forma di intelligenza artificiale. Tra l'altro anche in merito ai motori di ricerca si stanno facendo delle ricerche, ci sono degli esperimenti perché siano un po' più intelligenti, ma ancora una volta si tratta di farla muovere e farla scegliere questa intelligenza artificiale in una realtà complessa. Bisognerebbe renderla, in quanto intelligenza, sempre più simile a come siamo noi. Ecco, il punto è che spesso le nostre azioni sono istintive. Sarebbe dunque il caso di rendere le macchine più istintive? Ancora Wendell Wallach. Well, this is a great debate, actually. It's a wonderful question, and when you think it through, there may be situations where it's more instinctive would be fine. Beh, c'è un acceso dibattito sul punto. È una bella domanda, ed è vero che esistono situazioni nelle quali l'istinto funzionerebbe bene. Ma penso che quando introduciamo i robot nella nostra quotidianità, siamo particolarmente preoccupati del fatto che essi agiscano in maniera prevedibile, che siano controllabili, mentre dare spazio all'istinto significa renderli non controllabili, impedirci di sapere in anticipo come si comporteranno, e questo è fonte di grande preoccupazione. Ebbene, in questa circostanza andiamo incontro a due sfide molto diverse tra loro. La prima è: come si può garantire la sicurezza dei robot che agiscono in situazioni molto comuni nella vita quotidiana? La seconda, invece: in che modo si possono implementare meccanismi decisionali così sofisticati nelle macchine ad intelligenza artificiale? Quali sperimenti dovremmo fare per permettere alle macchine di sfruttare e sviluppare i loro istinti e la loro intuitività? Ovvero, siamo pronti a lasciare campo libero a nuove forme di intelligenza artificiale sulle quali non abbiamo assolutamente nessun tipo di controllo? Unseen dangers. Il problema è ancora più profondo di quanto non immaginassimo e, come vi abbiamo raccontato all'inizio portando l'esempio dell'auto che si guida da sola, ben più prossimo di quanto non immaginiamo. Ed è un tema, questo è il punto, che non sempre programmatori, ingegneri, insomma coloro che progettano le macchine, si pongono. Questa è davvero diventata una questione interessante, soprattutto negli ultimi sei mesi dell'ultimo anno. Alcuni tra i più illustri scienziati che si occupano di questo tema hanno messo in guardia contro i pericoli della superintelligenza artificiale. Così, improvvisamente, si è creata una grande attenzione sulla ricerca in corso, su come possiamo essere certi che il modo di concepire l'intelligenza artificiale contenuta nelle macchine o nei dispositivi robotici risulti sicura e che le azioni compiute da questi strumenti siano in linea con i valori del genere umano. Così, improvvisamente, molti addetti ai lavori si sono posti questo problema e lo hanno affrontato con approcci diversi in funzione del loro ruolo. Ma ritengo che la domanda da porsi in termini più generali sia: che tipo di attenzione dobbiamo riservare alla sicurezza dei dispositivi elettronici? La questione è in parte scientifica e in parte sociale. È una tematica che affronto nel dettaglio nel mio nuovo libro, uscito il mese scorso, che si intitola A Dangerous Master: How to Keep Technology from Slipping Beyond Our Control. Si parla non solo dell'approccio scientifico ed ingegneristico per garantire la sicurezza dei robot, ma anche dei valori che occorre considerare nel momento in cui si sviluppano robot più autonomi per impiego in campo militare. Ed ancora, che tipo di sorveglianza da parte governativa e non va messa in campo per accertarsi che le nuove forme di intelligenza artificiale siano davvero sicure, utili, solide ed abbiano un grado di affidabilità sufficiente per evitare che compiano azioni non desiderate? Come avete sentito, ci sono molte domande nelle stesse risposte di Wendell Wallach e molte risposte che su questo non abbiamo. Ci sono molti ricercatori che stanno lavorando su tutto questo e, a dir la verità, c'è un discreto livello di avanzamento anche in Italia su questi temi. Abbiamo raccontato nella scorsa puntata quanto ci siano punte avanzate di studio della robotica nel nostro paese. Abbiamo citato l'Istituto Italiano di Tecnologia, ma non c'è ovviamente solo quello, e c'è anche uno studio attento appunto a quella che viene definita la roboetica. Prima di salutarci, uno spazio dedicato a voi, innanzitutto di ringraziamenti. In queste tre settimane l'era dei robot è stata frequentemente nelle prime posizioni delle classifiche dei podcast più scaricati su iTunes, in un paio di giornate addirittura al primo posto, quando non al secondo, al terzo. Quindi grazie per la fiducia, tanto a chi ci ascolta in diretta quanto a chi ha deciso di iscriversi e scaricare la trasmissione. Oltre che su sistemi Apple, ovviamente potete farlo su tutti gli altri sistemi. Su Android io uso Podcast Republic, ma ce ne sono molti altri, oltre che la possibilità di scaricare direttamente dal sito www.radio24.it. La raccomandazione è di continuare a farlo e, se avete sentito solo questa puntata, di scaricare anche le altre. Abbiamo cercato di costruire questa trasmissione come una sorta di percorso che si è snodato per tutta l'estate. Se vi facesse piacere, con pochi mega di spazio potete provare a ricostruire questo percorso. C'è la segnalazione che mi arriva da un'ascoltatrice affezionata, Elena Poser, che su Twitter mi ha scritto a proposito di uno studio confortante di Deloitte, secondo il quale negli ultimi 140 anni la tecnologia ha creato più posti di lavoro di quanti non ne abbia distrutti. Grazie, ci torneremo sul tema del lavoro, che poi è uno dei temi centrali di quanto questa nuova ondata di macchine autonome stia sottraendo e stia distruggendo una serie di posti di lavoro. Ci torneremo la prossima settimana. Grazie ad Elena, alla quale ricordo anche che con calma, quando la trasmissione sarà finita con il 5 di settembre, scriverò un post sul blog della radio nella quale citerò una serie di fonti che mi sono state utili per approfondire gli argomenti che abbiamo trattato. Qua non ci sono spazi, molti sono link a siti internet, a ripeterli non ve li ricordereste nemmeno, quindi ripeto, a fine trasmissione farò una lista. E poi abbiamo il nostro contest, il nostro concorso per la ricerca di un nome alla mia co-conduttrice robotica, per inciso. Scusi dottore, ma è un maschio o una femmina? Nel mio caso il quesito è privo di significato. lo è effettivamente, ma la voce è femminile, quindi state scegliendo nomi femminili, potete continuare a farlo. Era dei robot at radio24.it, indirizzo email che potete utilizzare anche per mandarmi segnalazioni. Gli ultimi arrivati sono quello di Tony, che ringrazio per i complimenti, che suggerisce AIDA, Artificial Intelligence Dedicated Automation. Roberto Bellini, che parafrasando il mio nome propone, anche se in radio è illeggibile, Simon, ma scritto con l'uno al posto della I. A ricordo di un bel film con Al Pacino, nel quale da regista quasi fallito, comunque in difficoltà, crea un'attrice virtuale. Buongiorno, Simon. Buongiorno, signor Taransky. Simon, è digitalizzata una stella. Sai cosa significa? Abbiamo messo piede in una nuova dimensione. La nostra capacità di creare il falso ora supera la nostra capacità di scoprirlo. Io sono la morte del reale. Morte del reale. Morte del reale. Roberto propone anche Simuan, grazie Roberto, ma per come è il mio carattere vorrebbe dire metterci un po' troppo ego, non credo che sarà scelto, nell'ultima puntata vi svelerò comunque questa scelta. Ci sentiamo sabato prossimo alle 8.30, scaricate il podcast e, se avete gradito, raccomandate la trasmissione ad altri esseri umani. Ho analizzato i dati e so già se c'è qualcosa che non va, ma mi manca il vostro punto di vista, scrivetemi. Grazie anche a Pietro Lacorte per la parte tecnica, a tutti voi per l'ascolto, una buona giornata da Simone Spezia, ci si risente con l'era dei robot sabato prossimo alle 8.30.